L'impatto del Covid ha messo in chiaroscuro molti distretti del Lazio, dove quello medicale, chimico, farmaceutico aveva già sorpassato la Germania in produzione ed efficienza in Europa, soprattutto sui mercati esteri, ma Roma rappresenta un polo nazionale nel settore dell'audiovisivo. La presenza degli studi di Cinecittà e dei principali broadcaster italiani e di numerosissime emittenti locali ha favorito la specializzazione di un distretto con numerose piccole e medie imprese, e il distretto ha scontato in pieno l'effetto delle sale, spettacoli e teatri chiusi al pubblico, come spiega Giampaolo Letta, vicepresidente e amministratore delegato di Medusa Film e vicepresidente di Un'Industria Lazio con delega al turismo ed industria creativa. Ma l'impatto chiaramente è stato, come per tanti, per tutti, molto molto violento, quindi c'è stato alcuni mesi con ricavi in zero. Fortunatamente da metà giugno in poi qualche spiraglio di luce si è cominciato a intravedere. Dal punto di vista delle produzioni, tra serie televisive e prodotti cinematografici, si è ripreso a lavorare ovviamente con misure di sicurezza molto stringenti, ma con un ritmo molto elevato. La speranza è che si riesca a recuperare almeno parte del terreno perduto sotto il profilo della produzione. Chiaroscuri anche per la Puglia, dove a fronte di perdite cali i distretti produttivo della meccanica e dell'informatica pugliesi, insieme al Politecnico di Bari, si sono attivati nella corsa nazionale alla produzione di mascherine, e anche in Calabria, prima in Italia, secondo Coldiretti, per numero di aziende biologiche, sotto la spinta della svolta green e sostenibile degli italiani, favorita dall'emergenza Covid. Il Sud in generale e la Campania in particolare hanno dei settori che pre-pandemia funzionavano come eccellenze, basti pensare agli stabilimenti automobilistici di Pomigliano d'Arco, al distretto aerospaziale, a quello conciario delle calzature, a quello tecnologico e a quello del turismo, che va dal balneare all'enogastronomico e al culturale, al distretto dell'agroalimentare di Nocera Inferiore Gragnano, in primis, che come quello lucano di qualità del Metapontino rappresenta una punta di eccellenza in Italia, che ha subito un forte impatto, sì, ma si è risollevato, come spiega Denis Pantini, responsabile approfondimenti nell'agroalimentare di Nomisma, in base a una ricerca redatta da Nomisma per Centro Marca ABC. L'alimentare rappresenta una delle principali industrie a livello nazionale e con un maggior impatto socio-economico nei distretti del sud. Nei primi 7 mesi dell'anno, a differenza di un manifatturiero che ha perso il 14% nelle esportazioni, l'alimentare ha tenuto con un più 3,5%. Poi è chiaro che soprattutto il blocco della ristorazione ha creato non pochi problemi. In questo non mancano anche elementi, tra virgolette, positivi legati ai distretti del sud. Penso ad esempio alla Campania, dove è molto forte la produzione di pasta. E se ci imbarchiamo verso le principali isole italiane, agroindustria, turismo e in Sardegna, dal tradizionale sughero al settore tecnologico, erano già prima della pandemia i traini. E proprio in Sicilia, nel luglio scorso, si è concluso l'iter di riconoscimento dei distretti produttivi siciliani, una nuova geografia, dagli agrumi al meccatronico, alla pesca, al nautico. Ma il rilancio dell'economia dei distretti nazionali del sud, in particolare, non può fare a meno di ripartire proprio da qui, dai distretti. Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it. Martina e oltre 500.000 di aziende e professionisti usano la fatturazione elettronica di Aruba, perché è semplice, è completa e conveniente ed ha una nuova intuitiva app. Fatturazione elettronica di Aruba. Chi l'ha scelta, non la lascia più. Vai su aruba.it.